sono da solo in casa e mi viene voglia di rubare qualcosa, ma l'unica cosa che posso rubare è solo me stesso, e da solo sul letto mi sdraio e poi penso a cos'altro rubare senza spostarmi dal letto. Su quest'altra linea.